della città, largo! Presto, bottega, che l'alba è già presto! Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! Fortunatissimo in verità, bravo! Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cucagno per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasole e pettine, lancete forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasole e pettine, lancete forbici al mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la lallera lera, col cavaliere, tra la lallera lallallalla, la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, è furia, ahimè, è folla. Una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, son come fulmine, son il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la faticar poco e divertirsi assai, in tasca sempre aver qualche doblone, il gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si è casa in Siviglia, una ragazza, a me la vedo bella, ricorre pel marito. Io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favor della notte, a tutti onestamente non fa per dir, ma adatto a far piacere, oh che vita, che vita, oh che mestiere! Or su presto a bottega! Ed esso, oppur m'inganno! Ma chi sarà mai costui? Oh, a lui senz'altro! Figaro! Mio padrone! Chi vengo, eccellenza? Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo' farmi conoscere. Per questo ho le mie gran ragioni. Intendo, intendo! La lascio in libertà! No! Che serve? No, dico, resta qua. Forse i disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ti trovo qua? Poter del mondo, ti veggo grasso e tondo. La miseria, signore! A birbo! Grazie! Hai messo ancor giudizio? Oh, e come? Ed ella come in Siviglia? Or te lo spiego. Al prado vidi un fior di bellezza, una fanciulla figlia d'un certo medico barbogio che qua da pochi di si è stabilito. Io di questa invaghito lasciai patria e parenti e qua men venni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi? Un medico! A cospetto, siete ben fortunata! Sui maccheroni il cacio m'è cascato! Come? Certo, là dentro sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial, veterinario, il facendier di casa! Oh, che sorte! Non basta! La ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla! Oh, che consolazione! E perciò... Zitto! Cos'è? S'apre il balcone! Oh, mia vita, mio nome, mio tesoro, vi veggo al fine, al fine. Oh, che vergogna, vorrei darmi il biglietto. Ehi, ragazza, il tempo è buono. Cos'è quella carta? Niente, niente, signore, sono le parole dell'aria e dell'inutile precauzione. Cos'è questa, l'inutile precauzione? Ho inteso. Presto. Non temete. Con qua. Dov'è? Oh, il vento l'ha portata via. Guardate. Io non la vedo. Ehi, signorina. Non vorrei. Cospetto. Costei m'avesse preso. In casa, in casa. Animo su. A chi dico? In casa presto! Vado, vado, che voglio! Quel balcone lo voglio far murare! Dentro dico! Oh, che vita da crepare! Povera disgraziata, il suo stato infelice sempre più mi interessa! Presto, presto, vediamo cosa scrive! Appunto, leggi! Le vostre assidue premure hanno eccitato la mia curiosità. Procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Siate certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene la sventurata Rosina. Aiuto! Che? S'apre la porta! Fra momenti io torno! Non aprite a nessuno! Se Don Basilio venisse a ricercarmi, m'aspetti! Le mie nozze con lei? Meglio affrettare! Sì, dentro oggi finirò questo affare! Dentro oggi le sue nozze con Rosina a vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio? È un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già è maestro di musica, insegna la ragazza. Bene, bene, tutto giova a saper. Ora pensate della bella Rosina a soddisfar le brame. In una canzonetta così alla buona, il tutto spiegatele, signor. Una canzone? E certo, ecco la chitarra, presto andiamo. Ma io? Oh, che pazienza! Ebbene, proviamo.